Smart City, la città intelligente. Stanno crescendo di numero in molte città. Buonasera da Maurizio Melis. Parliamo delle colonnine per ricaricare le auto elettriche. Anche se sono ancora poco numerose, il trend, come sappiamo, è in rapida crescita e in prospettiva saranno migliaia. Ma questo significa che lasceranno un segno preciso nelle strade e nelle piazze delle città italiane, come un grande intervento di arredo urbano diffuso. Intervento che rischia però di essere assolutamente non progettato. Insomma, qualcosa che emerge progressivamente come un dato di fatto che poi è difficilmente mutabile. C'è anche un decreto legge, il DDL 2472C, che complica le cose. Ci segnala questo problema Fabio Bocchiola, direttore di Repower, importante azienda svizzera che opera anche in Italia nel campo della produzione di energia. Lo ha incontrato per noi Federico Pedrocchi. Sentiamo. Ci stiamo augurando tutti che arrivino le auto elettriche, soprattutto come auto per le grandi aree metropolitane, per le città. Però le auto elettriche devono portarsi appresso i sistemi di ricarica, che sono le centraline sparse per la città. Allora voi su questo tema avete fatto un ragionamento che riguarda l'arredo della città. Sì, noi siamo partiti appunto dal fatto che siamo operatori elettrici e come tali siamo diventati anche un po' un riferimento, se vogliamo, su una mobilità elettrica. E in tal senso abbiamo pensato a tutta la catena e una parte fondamentale è proprio la punto di ricarica, che secondo noi dovrebbe essere un punto di mercato, cioè un punto dove la concorrenza si esprime anche lì. È un po' come la storia, come il concetto del benzinaio, insomma il benzinaio non c'è un monomarca. Invece quello che abbiamo assistito un po' in Italia è che c'è stata un irrigidimento a favore del distributore. Ora la figura del distributore è colui un po' come la telecom per la telefonia, è colui che ci porta il filo elettrico a casa nostra, poi però siamo liberi di scegliere a casa nostra quale operatore. In questo caso invece la torretta di ricarica viene affidata al distributore ed è lui quindi responsabile. Per chiarezza, diciamo ai nostri ascoltatori, è il distributore è quello che tipicamente poi governa un'intera area, no? A2A in molte zone della Lombardia, Enel in altre parti, insomma sono questi i grandi distributori. C'è un disegno di legge che sta diventando operativo. Questo disegno di legge che cosa prevede? Il disegno di legge appunto è che nasce nel 2010 come legato agli spazi verdi urbani, viene poi approvato il 30 marzo dalla Commissione Territorio e Ambiente del Senato e prevede di affidare al distributore l'installazione di torrette. Noi abbiamo sviluppato una torretta, l'abbiamo fatta fare Italo Rota, abbiamo trovato un partner di eccezione perché abbiamo trovato ABB. ABB è un soggetto non da poco che ha sviluppato la più estesa rete di distribuzione di torrette a ricarica veloce in Lettonia, al mondo, scusate, mancava questo passaggio per capirci, cioè in Lettonia ha fatto la più grande rete di distribuzione al mondo di ricarica veloce. E quindi voglio dire, abbiamo ingegnerizzato questa torretta che è un oggetto che è sicuramente ha una sua estetica, una sua intelligenza, e in questo caso noi siamo tagliati fuori e qualsiasi comune voglia chiamare noi con la nostra torretta, ne stiamo sviluppando anche altre, e dovrà accontentarsi invece di quello che gli propone il suo distributore. Sì. Voi non state tanto parlando come azienda specifica, come Repower, ma in generale tutti coloro che possono progettare questo oggetto che, ricordiamolo, se si sviluppa l'auto elettrica diventerà un oggetto di arredo urbano tremendamente esteso. Voi vi preoccupate del fatto che effettivamente ci sia la possibilità invece di scegliere tra torrette che abbiano un design particolarmente gradevole, magari particolarmente adatto a certe zone della città o a certi tipi di città? È un po' questo il punto. Sicuramente, è il punto da cui siamo partiti. In realtà noi siamo partiti proprio vedendo le torrette che sono state installate a Milano, con tutto rispetto, però non sono oggetti, se vogliamo, di design particolarmente accattivanti, sono oggetti funzionali. Quello che serve forse nelle nostre piazze, nelle nostre città, è non dimenticarci che insomma ci dobbiamo vivere qua dentro. Quindi se io perdo l'occasione di fare un oggetto bello, un oggetto accattivante e anche un oggetto magari che possa sfruttare l'intelligenza che oggi è disponibile grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, e la torretta diventa un vero e proprio dispenser di kilowattore, potrebbe anche essere dispenser di informazioni. Quindi come tale, perché perdere un'occasione del genere? E con questo disegno di legge che sta passando alla Camera la stiamo perdendo, perché stiamo affidando a un distributore che a questo punto è remunerato solo perché mette una ciabatta, perché poi la torretta diventa una ciabatta a questo punto, la ciabatta di casa, perché non diventi una ciabatta in senso stretto in città, vabbè, però che appaia nelle vie, magari no. Anche a forma di ciabatta, ma potrebbe essere divertente, potrebbe diventare originale. Però è un po' come le stazioni metropolitane di Parigi in stile Liberty. Oggi il turista va e vede va a visitare la ringhiera della stazione metropolitana in stile Liberty di inizio secolo, cioè voglio dire, sì, anche perché poi la cosa che dobbiamo pensare è che questi impianti, se poi partono, si distribuiscono, diventano quelle cose inamovibili, sì, che sì, certo. non riesci più a cambiare per anni e anni. Lei citava prima Italo Rota, cioè vi siete presi un architetto che ha studiato il design della colonnina. Dobbiamo anche dire che per voi, dal punto di vista del business, qualunque torretta ci sia funziona, non è il vostro, no, è la vostra proprio una proposta di tipo culturale. Assolutamente sì, cioè per noi la torretta è marginale, noi non siamo né produttori di torrette né ingegneri di torrette. Sto anche pensando che le torrette potrebbero essere diverse. Una torretta nel centro di Verona dovrebbe essere sostanzialmente diversa da una torretta che invece appare in un centro magari molto avanzato, con architetture molto moderne, e non ha un'arena di 2000 anni di fianco. E invece è proprio quello che a me spiace, è vedere una normativa che invece frena questa possibilità. Beh, insomma, questo delle colonnine è un tipico esempio di come nella partita delle smart city vi sia il rischio di procedere in modo meccanico, magari per emulazione oppure guidati da una prospettiva puramente tecnologica, che per definizione tanto smart non può essere. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.